Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. La pancia borbotta. Sed panciam borbottam, non so. Grazie. Venanzi, esatto. Pensaci tu, verrebbe esatto. Da dire. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Non sarà solo colpa della crisi, ma la crisi ci mette del suo quando le certezze vacillano, i denari vengono a mancare perché il lavoro non è sicuro, il futuro diventa incerto e si vive quindi in una situazione di stress e preoccupazione continua, ne va di mezzo anche la salute. Eh sì, e gli esempi nella storia non mancano, era già successo con la crisi del 29, il crollo di Wall Street, poi il crollo dell'Unione Sovietica, tanto per scomodare le situazioni un po' lontane nel tempo, ma i dati confermano in queste circostanze un aumento di ansia, insonnia, abuso di alcol e droghe e disturbi mentali in generale, fra cui la depressione. E la depressione sta diventando un'emergenza, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che nel 2020 diventerà la malattia cronica più frequente, seconda solo alle patologie cardiovascolari. Una malattia che tutti conoscono, molti ne hanno avuto esperienze personali, dirette o indirette, ma su cui pesano ancora molti pregiudizi. E come tutte le malattie, anche la depressione ha dei costi diretti ed indiretti che possono essere molto pesanti. Per questo, insieme a Deborah, abbiamo oggi voluto dedicare la puntata a questa malattia per informare, fare prevenzione e soprattutto illustrare anche le iniziative e i progetti che possono aiutare pazienti e familiari a recuperare salute. E allora vi ricordiamo ancora il nostro numero verde per intervenire in diretta, è l'800 24 00 24, perché questa è una malattia che non va vissuta da soli. Noi cercheremo di fare rete e vi aiuteremo con i nostri esperti a capire qualcosa di più di quell'ansia, di quell'insicurezza, di quella preoccupazione che anche la crisi ha prodotto in molti di noi. E parleremo anche di come gestire la depressione sul proprio posto di lavoro. Raccontateci le vostre esperienze, noi siamo qua. 800 24 00 24, partiamo. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e Benessere. Vado così, mi trascina non so chi, attraverso corsie, non capisco che cosa è successo. Sono depresso. Quante volte abbiamo detto questa frase con leggerezza, giustificazione di un periodo triste ed emotivamente difficile? Tante, credo, perché a tutti è capitato di essere giù di morale, di non avere voglia di fare, di sentirsi inadeguati, demotivati, incapaci, senza forze e abbattute. Ma la depressione non è uno stato d'animo, ma qualcosa di più strutturato e complesso, in cui entrano in gioco diversi fattori. La depressione è una malattia che, per fortuna, si può curare. L'importante è riconoscere, ricevere una diagnosi e soprattutto l'assistenza adeguata. Oggi qua in studio con noi abbiamo il piacere, un grande piacere, di avere il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze all'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto anche da parte nostra, da parte mia. Professore, la crisi ha fatto da detonatore alla depressione, perché ci ha fatto sentire tutti più fragili, e ora ci sta raggiungendo l'onda lunga di questo fenomeno. Quello che assistiamo in questi anni è stato proprio una sua amplificazione, ha svelato ancora in maniera più forte, se era necessario, delle condizioni di sofferenza. Oggi in Italia consideriamo che almeno 4 milioni siano affetti ogni anno da depressione, e questa condizione a sua volta poi si associa a dei gravi disturbi d'ansia che riguardano oltre 8 milioni di persone. Questo a segnalare quanto sia importante la salute mentale dei cittadini, e che la propria salute, non ci può essere salute se non c'è salute mentale. Quindi quello che prima diceva, attenzione e soprattutto possibilità di ricevere in tempi utili una diagnosi e dei trattamenti accurati, è assolutamente fondamentale. Professor Mencacci, i disturbi mentali naturalmente provocano delle conseguenze, noi parleremo più tardi anche nell'ambito del lavoro che cosa succede, ma parliamo più in termini generali del piano sociale. I disturbi mentali chiaramente hanno un impatto su questo, forse di più di quanto non ne abbiano appunto, come dire, le questioni di carattere fisico. Beh, molte di più. Il peso della disabilità legata ai disturbi mentali è quello che pesa in assoluto di più di tutte le patologie, pesa per oltre il 26,2% di tutte le disabilità, e i costi sociali sono costi altissimi, ovviamente misurati tra costi diretti, cioè quello direttamente alla persona, e poi costi indiretti, perché questa, come dicevate all'apertura, è una patologia che coinvolge non solo l'individuo ma tutto il suo mondo familiare e lavorativo. L'entourage che lo circonda. Sì. La depressione, l'abbiamo sottolineato, è una malattia, ma ne abbiamo preso consapevolezza solo negli ultimi anni, professor Mencacci. Per questo motivo molti pregiudizi e falsi miti circondano ancora questa parola. Vogliamo prenderli in esame? Uno mi sta particolarmente a cuore ed è proprio la credenza molto diffusa che chi è depresso manchi di volontà. Quando si rivolge, magari ne parla ai familiari o agli amici, spesso si sente dire: ma dai, tirati su, pensa alla gente che sta peggio di te, ma pensa a chi è malato, ma pensa a chi ha perso il posto di lavoro. Insomma, si cerca di fargli coraggio addossandogli un'altra colpa, no? Che è quella di peggiorando la situazione. Ecco, professore. È proprio così. La depressione è proprio una malattia fisica, oltre che da un punto di vista emotivo dell'umore, e quando vengono fatti questi appelli alla volontà, che è uno dei primi sintomi che la persona sperimenta, non a caso per oltre 2000 anni l'abbiamo chiamata acidia e solamente da poco incominciamo a dargli il nome che ha, perché molte persone confondono apposta scoramento, demoralizzazione, tristezza con depressione, che è molto molto di più ed è soprattutto una condizione che fa sentire la persona estremamente isolata, lontana dagli altri, e quando gli viene anche dato questo giudizio, che diventa inevitabilmente quasi un giudizio morale, lo demoralizza ancora di più. E siccome noi a Cuore Denari invece non giudichiamo nessuno, se volete condividere con noi anche le vostre esperienze in questo senso, fatelo all'800 24 00 24. Ci sono già molte persone che si stanno mettendo in contatto con noi, anche al 349 238 6666. Soprattutto se state vivendo questa situazione anche nell'ambiente di lavoro, ci occuperemo di questo per darvi delle indicazioni e soprattutto orientamenti. 800 24 00 24, come ha ricordato Deborah. Ma Deborah, vogliamo salutare anche l'altra ospite che è qua con noi in studio, Liana Rosenthal, vicepresidente dell'associazione Progetto ITA, che è un'associazione che lavora nell'ambito della salute mentale. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. C'è un numero verde nazionale di questa organizzazione. Diciamolo. Allora, sì, speriamo di non confondere gli ascoltatori. Comunque, che chiamino il nostro, che chiamino questo, va bene lo stesso. 800 274 274. È a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 22.30 e anche la domenica, il pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Ecco, la vostra associazione è diventata, proprio attraverso lo strumento del numero verde, un straordinario osservatorio del fenomeno e dei suoi cambiamenti nel tempo. Chi si rivolge a voi e che profilo ha oggi rispetto a qualche anno fa? Allora, il nostro numero verde è un numero a estensione nazionale, quindi ci chiamano da tutta l'Italia e ci chiamano sostanzialmente persone che hanno bisogno o di informazioni e vogliono sapere a chi rivolgersi, quali sono i centri di cura, quali sono i servizi disponibili sul territorio, o persone molto sole, molto isolate, che hanno bisogno di parlare con qualcuno. E fino a qualche anno fa la maggioranza delle persone che ci chiamavano erano donne. Poi piano piano, col passare degli anni, sono aumentati anche gli uomini che hanno evidentemente trovato il coraggio di parlare di sé, e col tempo è diminuita anche l'età delle persone che ci chiamano. Si è abbassata un po'. Ecco, questo ci ha costretti, tra virgolette, a trovare un altro sistema di comunicazione più congeniale ai giovani, e quindi da un anno abbiamo aperto una chat, I giovani prima non telefonano, prima ci mandavano delle mail per avere informazioni, e da un anno, da quando hanno scoperto che abbiamo questo servizio di chat, chattano con noi. Naturalmente abbiamo dovuto trovare dei volontari giovani, certo, disponibili a venire la sera, perché i giovani di giorno non preferiscono contattarci la sera. E quindi diciamo è un progetto sperimentale, però diciamo che nell'arco dell'anno siamo arrivati a 1400 persone che chattano con i nostri volontari e chattano fra di loro. Tra l'altro, i vostri volontari chi sono? I nostri volontari sono persone... Medici o professionisti? No, non sono professionisti, però sono persone formate da noi. Per noi la formazione è molto importante, perché comunque diamo delle indicazioni e delle informazioni di base, e poi gli facciamo fare un tirocinio al telefono. Allora, sì. Vorrei commentare questo, no, cambiamento che ha raccontato Liana nell'utenza, nelle persone che si rivolgono a un'associazione come il progetto Itaca. Ce ne sono tante, noi segnaliamo oggi progetto Itaca perché fa tante iniziative, e poi soprattutto ha un progetto molto bello per il reinserimento nel mondo del lavoro, di cui parleremo tra poco. Ma quindi, professor Mencacci, non più solo donne, anche se la depressione nelle donne ha dei segni clinici precisi, i giovani, ma anche i giovani in un certo senso, l'abbiamo capito dalle parole di Liana, si nascondono un po', non chiamano, chattano. Professor Mencacci. Quello che stiamo assistendo è che al rapporto donne-uomini per la depressione, che è sempre stato 2-1, questo per molti motivi di carattere sia biologico che sociale, e quello che assistiamo è che proprio la fascia di diciamo anche maggiore produttività che è entrata sempre più in crisi, tanto da riscontrare non solo tassi di disoccupazione più alti, ma anche riscontrando come fondamentalmente chi pur giovane in una condizione di depressione non riconosciuta cerca lavoro con molta meno dedizione e attivamente. Questo è un tema che va considerato anche da un punto di vista sociale, perché si aumenta così quella percezione di scoramento, di non avere futuro, che a volte effettivamente viene rappresentato dalla crisi, ma che viene anche amplificato dalla condizione personale dell'individuo, e quindi la sua valutazione, certo, sicuramente più pessimista. Andiamo a sentire gli subito ascoltatori. Gli ascoltatori, sì. Abbiamo proprio casualmente già due donne che ci hanno chiamato. Cominciamo con Vania da Brescia. Sì. Vania, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io appunto stavo seguendo la trasmissione e ho voluto chiamare proprio perché io in prima persona ho sofferto di depressione, sono ancora in cura. Ho iniziato circa 3 anni fa. E un po' problemi di lavoro, un po' altri problemi, e quindi molto probabilmente un insieme di cose, in più entravo anche in menopausa, problemi col ciclo eccetera, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Mm-hmm. Ho iniziato questi attacchi, un'ansia incredibile, ho fatto addirittura 3 mesi che non riuscivo a uscire di casa, mi aiutava mio marito eccetera, proprio se dovevo andare da qualche parte, perché avevo un terrore, un'ansia incredibile. E qui ovviamente mi ha portato anche depressione eccetera. Ecco, quello che voglio dire io è questo, che si può magari, non so se uscirne del tutto, comunque star meglio. Io ho trovato un bravissimo terapeuta, uno psichiatra a Brescia. Sì. Sono in cura da lui, ovviamente sia con farmaci, perché da sola se no non ci riesci, e sto facendo anche delle sedute sempre con... devo dire che sto molto meglio. Di psicoterapia. Mm-hmm. Quindi abbina, professor Mencacci, quelle che sono le indicazioni nei casi in cui sono necessari i farmaci, ma abbinati sempre a un percorso proprio di psicoterapia. Così. Devo dire che Vania racconta perfettamente quello che è un percorso grandissima e gravissima ansia che incide pesantemente sulla vita sociale, relazionale e lavorativa, depressione che ne segue, ma soprattutto l'indicazione che il trattamento combinato farmacoterapia e psicoterapia è quello a tutt'oggi che dà i migliori risultati e che va proseguito nel tempo. E le durate delle nostre terapie, come altre terapie, sono piuttosto lunghi, ma i risultati sono ottimi, perché il rischio nelle depressioni è interrompere troppo presto le cure, perché è una malattia che tende ad avere delle ricorrenze. Delle ricadute. No, tra l'altro Vania ha anche detto una cosa molto importante. Io ho trovato un ottimo terapeuta. Andando un po', professor Mencacci, alla fase precedente, nel momento in cui, superata la resistenza nell'ammettere di avere un problema, loro si conosce anche, come dire, parzialmente. Dove si va? Il primo approccio giusto è quello con il medico di base? Beh, il medico di base rimane il perno centrale e direi che tutta anche l'attività nostra come Società Italiana di Psichiatria è rivolta a lui per il riconoscimento. Dico che in Italia tutt'oggi ci vogliono oltre 24 mesi prima di ricevere una diagnosi e vi parlo di dati del 2013. Noi pensiamo che sia ancora così diffusa, a volte vengono lanciati degli allarmi perché si vedono crescere i numeri, ma siamo lontanissimi dal numero di persone che effettivamente stimiamo ne siano colpiti. Quindi il medico di base è centrale per poter fare l'invio, se si rende conto che è una forma depressiva, allo specialista di riferimento che è lo psichiatra. Tant'è che sempre alla base di questa ricerca di oltre 700 casi abbiamo visto che la diagnosi di fatto la fa sempre lo psichiatra. Eliana, c'è ancora molta resistenza un po' a riconoscere i sintomi, perché diamo sempre una giustificazione al disagio che avvertiamo, no? Diamo la colpa magari a una relazione sentimentale non appagante, a un lavoro che ci stressa. Invece ci sono dei segnali importanti d'allarme che devono aiutare e spingere, se non il diretto interessato, le persone che a lui stanno vicino a chiedere aiuto. Quali sì. sono? Ma io posso parlare per esperienza personale. Grazie. Ormai molti anni fa ho avuto una depressione non grave, però sicuramente che mi ha procurato una grande sofferenza. Non ho avuto bisogno di interrompere il lavoro. Ho continuato a occuparmi della mia famiglia, però sicuramente, soprattutto i rapporti all'interno della famiglia si sono deteriorati. Il mio marito era diventato il capro espiatorio della situazione e questo mi ha spinto a provvedere sia questo sia proprio il grado di sofferenza personale. Quella secondo me è la discriminante più importante. Quando la sofferenza diventa così forte non è più pensabile credere di farcela da soli e quindi bisogna assolutamente ricorrere ai professionisti, che è quello che ho fatto. Ci è voluto del tempo, però il risultato è stato sicuramente molto, è stato grande, sì, importante, grande. Professor Mencacci, vogliamo, prima di dare la linea a Deborah per i mercati, ricordare quali sono i segnali che possono fungere un po' da campanello d'allarme? Insonni, irritabilità, sono dei segnali questo. A volte che sembrano sfumati, no? Che possiamo condividere con il nostro compagno di lavoro, ma il punto è proprio questo: quando un'insonnia permane nel tempo, quando la crescita dell'ansia è progressiva, il senso di stanchezza e di inadeguatezza, ma soprattutto quando la persona incomincia a non provare più piacere per nulla di quello che normalmente la stimolava, beh, questi sono già segnali che ci portano molto avanti. Se poi si aggiunge la faccia, l'irritabilità e irascibilità, ci fanno capire come la persona viaggi sempre sul filo, ma soprattutto quanto sia crescente la sofferenza. Molte persone dicono: vorrei avere qualunque altra patologia, ma non questa, per il dolore, la sofferenza che mi genera e soprattutto la completa assenza di avere un futuro e una speranza, perché la depressione, quando è molto forte e cupa, proprio toglie il futuro e la speranza. C'è anche un messaggio interessante di Elisa che in qualche maniera ci riaggancia anche a un ragionamento che facevamo ad inizio trasmissione. Ma la depressione è veramente una malattia moderna, tra virgolette, oppure esiste da sempre? Professor Mencacci, ci sono più professionisti in grado di diagnosticarla più del passato o davvero le condizioni, diciamo, della società attuale hanno un po' inasprito queste condizioni? Diciamo che la società attuale mette più in evidenza, soprattutto perché ci viene chiesto maggiori performance, ci viene chiesto più contatto con gli altri, abbiamo più vita sociale rispetto al passato. La depressione è sempre esistita, ampiamente tracciata dalla Bibbia e in qualunque altro testo a partire da quello, ma il dato sociale è che se una volta una donna stava chiusa in casa per diversi mesi veniva considerata una donna un po' introversa e chiusa. Oggi se una donna sta chiusa in casa per diversi mesi, una domanda che viene posta è se effettivamente è affetta da depressione, e questo ci fa capire il peso sociale diverso, soprattutto nel senso delle donne, ma anche degli uomini. Una volta si diceva un brutto carattere, attraversa periodi in cui è molto chiuso. Beh, oggi ci interroghiamo se quello non era una vera e propria sofferenza, torna a dire una sofferenza biologica. E questo che è importante comprendere, solamente la nostra, diciamo, ignoranza su come funziona il nostro cervello ci fa ancora dividere tra un qualcosa di psichico e qualcosa invece di fisico. E infatti spesso, non notandone i segni, molto spesso la persona depressa deve pagare anche le occhiate delle persone che sono intorno e dicono: ma lo sarà o lo farà? Dirà la verità o mentirà? Il giudizio, che a volte è davvero pesante, produce delle ferite profonde. Deborah. Andiamo ai mercati adesso, allora 800 24 00 24, continuate a chiamarci, anche a scriverci al 349 238 6666. Prima delle borse vi leggo solo queste due indicazioni di questi due ascoltatori. Uno ci scrive: fede e volontariato sono medicine miracolose, perché vedi chi sta peggio e non sei solo soprattutto. Mauro ci scrive: abbinate anche lo sport alle vostre cure perché è un tocca sana. Che colore dareste al vostro umore di questo periodo? Come è cambiato negli ultimi tempi? Siamo tornate, un saluto da Nicoletta Carbone. E da Deborah Rosciani, buongiorno a tutti. Insieme a noi oggi per parlare di una malattia che spesso viene sottodiagnosticata o diagnosticata in ritardo, su cui pesano molti pregiudizi e che ha sicuramente aumentato i suoi casi in conseguenza della crisi che è stato della crisi economica che stiamo vivendo, che ha funzionato come un vero e proprio detonatore. Abbiamo qua in studio il professor Claudio Mencacci, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienza all'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano, e Eliana Rosenthal, che è vicepresidente dell'associazione Progetto Itaca, un'associazione che lavora nell'ambito della salute mentale. Oggi vogliamo fare informazione per contribuire a fare un po' di prevenzione. Il professor Mencacci sottolineava un dato molto preoccupante, e cioè che ci vogliono circa 2 anni prima di arrivare a una diagnosi, e in questi 2 anni le persone continuano ad avere rapporti, sono inserite nel mondo del lavoro, faticano, a volte sono in preda veramente a delle crisi molto forti, perché ricordiamo che la depressione è una malattia e come tale va diagnosticata e va curata e può essere curata. Deborah. C'è un dato anche che ci colpisce particolarmente, dati che si riferiscono naturalmente, appunto insistiamo su questo, alla crisi economica che ha, come dicevamo prima, fatto anche un po' da detonatore a molte situazioni che prima erano magari un po' tenute a bada, sotto controllo, nascoste, poi anche per il nostro pudore magari a volte di raccontare queste problematiche agli altri che ci sta intorno. Vi racconto quello che è successo in Grecia dal 2008 al 2011, del paese, il piccolo paese europeo che ha vissuto appunto la crisi più importante. I giovani under 35 depressi sono più che triplicati, senz'altro qui gioca un ruolo appunto la crisi. Allora, professor Mencacci, facciamo anche una differenza di genere. Prima un po' abbiamo detto quello che sta succedendo da qualche tempo a questa parte, gli uomini che un po' di più emergono in questa dichiarazione anche di avere questi problemi, ma relativamente invece all'età? Qualcosa in più possiamo dirlo? Prima appunto la dottoressa Rosenthal ci ha detto che i giovani chiamano di più anche la loro associazione, fanno più contatto. Beh, quello che stiamo notando è che effettivamente sia nelle fasce giovanili, diciamo entro i 35 anni, oltre che poi la fascia oltre i 65, stiamo notando un incremento. Il momento della pensione è molto delicato, vero? L'uscita in maniera non traumatica dal mondo del lavoro, ma regolare, anche quello incide. Beh, è un momento veramente molto delicato, soprattutto per chi ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e non si è costruito degli spazi personali e relazionali. E qui quello che assistiamo sono dei veri e propri sconvolgimenti sociali, proprio perché a volte la stessa coppia non si riconosce, i figli sono fuori. E anzi, c'è un dato interessante che è un po' si è modificato. In realtà sembrerebbe, dalle ultime studi che abbiamo fatto, è che in realtà siano più esposte a depressione le donne con figli, questo è interessante, rispetto alle single, e che fondamentalmente lo siano più esposte a depressione nelle aree rurali che nelle aree metropolitane. Proprio c'è questo mecciare di questo cambio, dove ogni scelta relazionale viene posticipato e quindi dove il carico della famiglia, delle responsabilità, e per la donna un carico di lavoro, se ancor più ha un lavoro o il triplo lavoro come ha, assolutamente insopportabile, in assenza di una rete sociale familiare come spesso accade. Questo è un cambio che segnalo, perché è veramente quelli che venivano considerati una volta dei fattori protettivi, in realtà stanno diventando dei fattori di riduzione di quella che viene chiamata della resilienza. Incredibile. Ho tre messaggi tra i tanti che vorrei leggervi. Vorrei chiedere, per chi si trova in difficoltà economica e non si può permettere di pagarsi uno psicologo o uno psichiatra, certo, se c'è qualche associazione o fondazione gratis a cui rivolgersi, ci chiede un ascoltatore. Posso dire anche che su Facebook Elisabetta ci scrive: Itaca di Bergamo mi ha aiutato tantissimo, quindi volevo dare questo riconoscimento. Noi, certo, noi abbiamo qua Progetto Itaca, naturalmente non è l'unica associazione, ma voglio abbinarla ad un'altra ascoltatrice, a Jo, che ci scrive: non vi ho sentito nominare i centri di salute mentale. In questi centri l'assistenza è gratuita. Professor Mencacci, ritorniamo. Allora, una persona che è in difficoltà, il servizio sanitario, parleremo insieme poi a Deborah anche dei costi, può aiutarla a uscire, quindi a ricevere una diagnosi e a essere curata. E poi affronteremo anche il ruolo delle associazioni con i gruppi di autoaiuto, proprio perché, come diceva Deborah all'inizio, è opportuno fare rete. Allora, l'abbiamo già detto, vado dal medico di base, il medico di base mi indica una struttura. Quello che su tutto il territorio nazionale abbiamo dei centri di salute mentale, in Lombardia si chiamano centri psicosociali, dove sono presenti equip fatte da psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, che sono assolutamente in grado e formati per dare una risposta alle situazioni di depressione, ovviamente quella da quelle più gravi e poi via via scendere. Esistono sempre sul territorio nazionale dei centri di riferimento super specialistici proprio sul tema della depressione nelle sue diverse declinazioni, sia in comorbidità con l'ansia, sia per la depressione, ad esempio in gravidanza e nel postpartum. Quindi c'è una risposta. Alla domanda se viene fornita, oltre alla diagnosi, alle terapie mediche somatiche, anche psicoterapia, diciamo che sulla psicoterapia normalmente vengono forniti un numero definito di incontri, che sono 8, perché ovviamente le psicoterapie sono una condizione che il Servizio Sanitario Nazionale in questo momento non si può permettere, anche se molti centri stanno mettendo in campo delle cosiddette psicoterapie calmierate a dei prezzi molto accessibili, e questo mi sembra un buon intervento. Liana Rosenthal, mi pare che il vostro ruolo in questo contesto sia assolutamente fondamentale. Tra l'altro ci piacerebbe esplorare un po' anche il tema dell'autoaiuto, cosa si può fare da soli nel momento in cui la consapevolezza è piena di questo problema, ma le vorrei leggere anche una testimonianza di un'ascoltatrice che addirittura ha spalmato il suo messaggio su tre, tanto è lungo, si chiama Iris e vuole sapere: ai familiari di persone gravemente depresse cosa consigliate? Perché vedo mia madre soffrire da quando ero piccola, in costante peggioramento. Se una persona non vuole curarsi, cosa si può fare? Sono fortemente contraria ai provvedimenti coatti, ma mi sento completamente persa. È giusto sacrificare la propria felicità per combattere contro i mulini a vento? Quante testimonianze di questo tipo vi arrivano anche al vostro centro? Allora, noi dunque, intanto per quello che riguarda persone che non vogliono curarsi, sono tantissime. Sono persone che hanno paura di esporsi, hanno paura dello psichiatra, non credono nello psichiatra e si rivolgono a noi. Tendenzialmente noi queste persone, a meno che non si tratti di patologie molto gravi, le inseriamo nei nostri gruppi di autoaiuto. I gruppi di autoaiuto non sono ovviamente terapeutici, sono di affiancamento alla cura. Però la condivisione del problema è fondamentale. Ecco, però ecco, la cosa importante dei gruppi di autoaiuto è che si stabilisce un rapporto fra pari e c'è la condivisione del problema. Le persone entrano con un po' di sospetto, ma pian piano acquistano fiducia e pian piano cominciano a parlare di sé, ad ascoltare gli altri. Questo produce proprio una condizione di benessere e un aumento dell'autostima, e questo è di grandissimo aiuto poi per il recupero dei rapporti con gli amici, con i familiari fuori del gruppo. Certo. Abbiamo in linea con noi Monica, che ci chiama da Treviso, prima della viabilità. Stiamo notando con Deborah, e questo per certi versi ci fa piacere, perché la nostra è una trasmissione che è rivolta molto al pubblico femminile. Dall'altro sono tante le nostre ascoltatrici che si mettono in contatto con noi, quasi a sottolineare proprio questa, perché le donne la vivono sulla pelle, ma la vivono anche indirettamente per i loro familiari. Quindi diamo la parola a Monica da Treviso. Buongiorno Monica, benvenuta. Buongiorno, io ho mia sorella che praticamente è in piena depressione e noi non riusciamo a fare niente, nel senso che lei ha un atteggiamento, quando noi diamo qualche consiglio ci rivolta, e poi i suoi atteggiamenti ti fanno anche una rabbia forte, perché lei ha due bambini piccoli e non capisco che è brutto dire devi muoverti, però c'hai queste due anime da tirare su, non possiamo farlo. Quanti noi anni ha sua sorella Monica? Mia sorella ha 36 anni, ma il brutto è che lei sta andando da una psicoterapeuta, se la vogliamo chiamare così, però questa gli dà psicofarmaci e lei ne abusa, come ne abusa a volte dell'alcol, e noi come possiamo aiutarla? Eccoci ritrovati in diretta. Sì, vabbè, è il bello della diretta. Uno studio molto vivace stamattina, anche perché il tema del quale stiamo parlando ci sta appassionando molto, e soprattutto siamo contenti che stiamo coinvolgendo anche molti ascoltatori che non hanno paura di mettersi a nudo anche con noi, di raccontarci anche problematiche molto forti che stanno vivendo all'interno della propria famiglia, come l'ascoltatrice che ci ha chiamato poco fa e che sta appunto assistendo e vede, ha la sensazione di essere totalmente impotente rispetto alla distruzione della propria vita che sua sorella appunto sta mettendo in atto. Ci ha raggiunto Francesca Merzacora, l'avevo anticipata, presidente di ONDA, l'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna. Buongiorno. Valetta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei era in ascolto, ha sentito la richiesta di aiuto di questa ragazza e la disperazione dei familiari, e io penso anche il disagio dei bambini, perché vivere con un genitore depresso si porta un segno che a volte è molto faticoso da cancellare. ONDA ha fatto delle iniziative proprio rivolte per la depressione femminile. Dottoressa Merzagora. Sì, Onda ha fatto parecchie ricerche da cui è emerso quello che è venuto fuori già in trasmissione, cioè questa connotazione femminile, no? Di questa problematica, le poche informazioni disponibili, il grande stigma che ancora, come dire, avvolge il tema della depressione, la solitudine di queste donne, la sofferenza, ma anche la paura. Pensi che la depressione, in una delle nostre indagini, è emersa come una patologia ben più temuta del carcinoma alla mammella, questo ci ha veramente colpito. La dice lunga, certo. La dice lunga, sì. E poi queste donne hanno, come dire, poca fiducia anche sull'efficacia delle terapie, c'è molto bisogno, da, secondo il nostro punto di vista, secondo il nostro osservatorio, di avvicinare la popolazione alle cure. Per questo, per la prima volta il 10 ottobre 2010, 2013 abbiamo chiesto ai nostri bollini rosa, che sono gli ospedali italiani che si connotano per una particolare attenzione alle donne. L'altro ieri eravamo a Roma, a Palazzo Chigi, abbiamo premiato questo nuovo network di 230 ospedali. Abbiamo chiesto proprio agli ospedali che potevano farlo, che erano interessati, di aprire le porte alla popolazione. Hanno risposto in 80 e in effetti in quella giornata sono stati organizzati convegni, sono state fatte delle visite, somministrati dei test, si è proprio proceduto al primo passo di quello che, grazie alla SIP, anche alla Società Italiana di Psichiatria, si sta facendo in questi anni, cioè avvicinare le donne, perché poi sono le donne principalmente, certo, anche le caregiver. Prendiamo per esempio il caso della schizofrenia, no? Quanto ruolo viene svolto dalla figura femminile, che non è badante in questo caso, ma è soprattutto familiare. Certo. Ecco. E quindi è un'iniziativa che rifaremo di certo l'anno prossimo, perché la popolazione femminile attraverso un motore di ricerca poteva entrare, capiva i servizi, si iscriveva, insomma è stato proprio un bel lavoro di rete. Di rete. Ecco. Grazie. Allora, no, le possiamo leggere cosa ci scrive questo medico donna? Sì. Perché certo, è interessante. Perché anche poi vogliamo occuparci anche del caso della nostra ascoltatrice, perché esatto, vogliamo dare indicazioni, precise, e aiuti, esatto, concreti. Angela ci racconta che è un cardiologo ambulatoriale a Milano. Ogni giorno ci scrive circa la metà dei pazienti che valuto, inviati dai medici di base per sospetti problemi cardiologici, in realtà sono ansiosi e depressi. Quando poi comunico che il loro cuore è sano, sono delusi. Vorrei lavorare con a fianco un collega psichiatra, psicoterapeuta. Che ne pensate? Chi alza la mano, professor Mencacci? Beh, direi che ringrazio la collega cardiologa, perché dice quello che è la verità, che moltissimi dei disturbi anche cardiologici, dall'infarto, hanno una comorbidità con la depressione che cambia completamente gli esiti delle patologie, l'esito della guarigione, e cambia anche la quantità di vita, perché la copresenza con depressione aumenta di 3 volte il rischio di morte a 6 mesi. E questo per ricordare come... Questi sono dati che non vengono solitamente raccontati da nessuno, ecco. Ecco, e io invece sono... noi li raccontiamo. Dottoressa Merzagora, grazie per grazie. Il suo impegno e per essere intervenuta a cuore denari. Grazie, buona giornata. A voi, buona giornata. Un ascoltatore ci scrive, e ritorniamo poi subito dopo a Liana Rosenthal, che ci vuole raccontare un'iniziativa di Progetto Itaca molto interessante che può aiutare la nostra amica Monica, che chiedeva aiuto per la sorella, non sanno più che cosa fare. Che cosa offre Progetto Itaca, che cosa state già organizzando? Mi sembra un bellissimo progetto. Sì, da qualche anno abbiamo... organizzato questo, abbiamo preso dagli Stati Uniti, perché lì è nata questo progetto Family to Family, famiglia a famiglia, che è un progetto proprio per i familiari di malati psichici, perché quei familiari sono appunto spaventati, sono sofferenti, e invece devono diventare delle risorse per le persone che stanno male. Ed è un corso che è impegnativo, perché dura 3 mesi, sono di incontri settimanali di 2 ore e mezzo, in cui si danno informazioni sulle patologie, ma soprattutto si danno strategie di problem solving e poi è un supporto gruppo, emotivo. E poi è una sorta di gruppo di autoaiuto, perché la depressione è una malattia che coinvolge la famiglia. E siamo tornati insieme. Oggi abbiamo dedicato la nostra puntata ad una malattia di cui si sente parlare ma di cui si ha ancora paura. Spesso viene diagnosticata in ritardo e la persona che riceve diagnosi spesso si sente in qualche modo segnata. Da un segno che è difficile, quasi da cancellare, quasi indelebile. Parliamo di depressione, i casi in conseguenza della crisi sono aumentati, sta assumendo veramente dei numeri molto importanti. Noi oggi, insieme ai nostri esperti, vogliamo dare voce alle persone che non sanno cosa fare, a chi rivolgerci, quindi alle persone che la depressione la vivono nella propria pelle, ma anche ai familiari, ai colleghi, agli amici di una persona depressa che non sanno aiutare, che non sanno dove indirizzare. E quindi diamo la parola ad Elisa che ci chiama da Padova e che ci permette un po' di concludere delle indicazioni che sono partite dal caso della nostra ascoltatrice, sorella di una ragazza depressa con dei figli che utilizza l'alcol, come ci sottolinea un nostro ascoltatore. Spesso il ricorso all'alcol è considerato un farmaco dalla persona depressa. Elisa, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io ho una domanda da porre. Come si fa, nel modo più delicato, perché evidentemente è un argomento decisamente delicato, ad aiutare un'amica, nel mio caso ho un'amica che soffre di depressione, la famiglia è abbastanza inesistente in questo senso, non ci sente, però questa persona ha bisogno di aiuto, certo, evidentemente. Grazie Elisa per la sua domanda. Ha detto una cosa molto carina Elisa, io voglio farlo in modo delicato, ma a queste persone serve invece essere spronati in maniera molto forte, professor Mencacci? No, non certo spronati con forza, ma accompagnati a prendere consapevolezza, ma soprattutto a recuperare un margine, di dare una possibilità di poter accettare la mano che gli si tende. Il messaggio che deve venire dagli amici e di rinforzare le opportunità di cura, e questo sono rinforzate dalla scienza e sono rinforzate dal fatto che le persone possono veramente cambiare anche la loro vita, oltre alla qualità, ma proprio per intero, anche da un punto di vista professionale e relazionale. Ma devono avvicinarsi alle cure, non avere paura, perché la paura fa vincere l'ignoranza e noi dobbiamo proprio superare, attraverso la scienza e la ragione, questa ignoranza. 800 24 00 24, continuate ad intervenire. La persona depressa paga un prezzo a volte molto alto per la sua malattia, ne abbiamo parlato nel corso di tutta l'ora precedente. Ci sono costi diretti e costi indiretti. I primi riguardano la diagnosi, la gestione, la riabilitazione, i secondi, che sono quelli indiretti, le giornate perse, l'inefficienza lavorativa, la perdita di giorni e di efficienza lavorativa anche dei familiari, i pensionamenti precoci, pensionamenti da inabilità del lavoro, e di tutto questo parliamo nella seconda parte del programma. Salva Danaio. E ci aiuta ad esplorare proprio questi aspetti che adesso approfondiremo un'ascoltatrice all'800 24 00 24, un'altra ascoltatrice da Padova, un'altra donna, Marianna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Grazie. Era Deborina, ma è uguale. Ormai siamo interscambiabili. Esatto. Grazie Marianna. Grazie di avermi richiamato e di avermi dato la possibilità di intervenire. E niente, anch'io ovviamente ho tutta una storia lunghissima, trentennale, ultra trentennale di depressione. Adesso sto molto meglio, eccetera eccetera, però diciamo che sottoscrivo tutto quello che è stato detto. Veramente sono situazioni attraverso cui io sono passata, la paura, il senso di colpa, di sentirsi malati laddove dovevi essere tu invece accompagnato, sostenuto. Perché voleva intervenire sul tema dei costi sociali? Volevo intervenire proprio sui, visto che appunto la depressione è una malattia intanto maledettamente seria e che ha costi sociali enormi, e perché praticamente è impossibile fare una psicoterapia nel pubblico? di tante persone abbandonano il professor Mencacci di... Mariana, grazie, diceva Mariana. Otto, ci sono almeno 8 incontri con lo psicoterapeuta, sicuramente in molti casi non basteranno, ma insomma approfittiamo già di quello che, no, abbiamo a disposizione, perché se no non si esce più. Ci sono poi le associazioni, ci sono i gruppi di autoaiuto, insomma, come dicevamo, bisogna fare rete, una mano lava l'altra, sembra una banalità, ma in questi casi di in periodi di vacche magre bisogna sì, e soprattutto ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire la cura alle forme di depressione più grave, e questo è fondamentale, proprio perché esistono gradi diversi. È vero che è importante la psicoterapia, ma lo stato attuale diventa un costo sociale che il più delle volte ovviamente è a carico dell'individuo. È importante però queste iniziative prese da diversi psicoterapeuti, delle psicoterapie calmierate, che quindi diventano accessibili per tutti i tempi necessari. Ce li quantifica questi costi, professor Mencacci? Perché ne stiamo parlando, stiamo tentando di dare una forma, sostanza appunto a questo problema, ma in soldoni? In soldoni le dico che il peso maggiore sono ovviamente legato alle eventuali ospedalizzazioni e tutti gli accertamenti anche che vengono fatti prima di dare la diagnosi di depressione. I costi per i farmaci, la stragrande maggioranza è rimborsato al Sistema Sanitario Nazionale, pesano circa il 10% di tutti i costi, e vorremmo che l'innovazione e la ricerca sia sempre messa a disposizione di tutti i cittadini, cosa che non sempre avviene. Ma il grande peso è che ogni depresso in media perde un giorno alla settimana, 6 ore, quelle che abbiamo calcolate, ed è la patologia in assoluto che comporta più giorni di lavoro persi di tutte le patologie. A questo vanno aggiunti ovviamente i giorni di lavoro persi dai familiari, le mancate iniziative e progettualità sul lavoro, perché la condizione di depressione non solo impedisce una crescita del lavoro, ma fondamentalmente aggiunge una chiave fondamentalmente pessimista e negativa a qualunque altra iniziativa, che non solo riguarda l'individuo ma riguarda anche il suo mondo circostante, quindi frena tutto. E del mondo del lavoro parleremo adesso. Saluto l'ospite che ci accompagnerà in questo piccolo viaggio, il nostro consulente del lavoro Enzo De Fusco, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie, buongiorno. Grazie nostro Enzo, ma sentiamo anche un altro paio di ascoltatori, Nicoletta, certo, perché le testimonianze sono sicuramente molto più efficaci. Volevo solo leggere un messaggio che arriva. Provate voi, ho perso il lavoro, le spese incombono, la moglie se ne sta andando, i figli mi disconoscono e non ho certo i soldi per andare dallo psicologo. Allora io direi in questo caso si va verso da un'associazione come Progetto Itaca. Adesso non vogliamo parlare solo di Progetto Itaca, ma qua c'è la vicepresidente. Con un po' di impegno intorno al te. Però il problema è quello, avere anche, come dire, la voglia di mettersi a cercare qualcuno che ti aiuti. Fatevi aiutare. È giusto il messaggio? Sì, assolutamente ecco. Sì. Diciamo, noi non ci occupiamo di progetti di affiancamento della cura sostanzialmente, certo. E non problemi di affrontare parte certo, della ricerca di un lavoro, né diagnosi, per le persone, né di diagnosi di niente. Possiamo fare dei colloqui con dei counselor, possiamo far fare alle persone che ci chiamano, che hanno bisogno di aiuto, dei colloqui con dei counselor. E tutto gratuitamente. Gratuitamente. Mm-hmm. Certo, no, ci sono delle mail anche molto lunghe con persone che ci hanno raccontato dei casi piuttosto complicati. Allora io scrivo a Nicoletta, a Federico, ad Amélie, che gireremo le vostre richieste di aiuto, se e vogliono gli amici di Itaca, tutte quelle che arriveranno, perché sono casi un po' complicati da trattare adesso in maniera superficiale appunto con sicuramente con utilizzate la mail di Cuore Denari, Facebook e noi come sempre siamo qua. Allora, il tema del lavoro, per introdurre l'approfondimento che faremo con Enzo De Fusco, direi di sentire Federico da Viareggio, che soffre di depressione da molti anni e per colpa di questo, dice Federico, il mondo del lavoro per lei, come dire, il rapporto con il lavoro è stato compromesso. Federico? Sì, mi sente? La sì, sentiamo Federico. Bene, sì. No, niente, io ho sofferto di depressione fin da piccolo, all'inizio non l'avevano diagnosticata, poi se ne sono accorti verso i 15 anni e mezzo. A me era cominciata intorno ai 13, 12 e mezzo, 13, probabilmente a causa della separazione dei genitori. Vabbè, comunque, per farla breve, io soffro di depressione reattiva E principalmente quando le cose economiche vanno male, perché ho avuto dei trascorsi problematici in famiglia, io entro in crisi. Ultimamente, qualche anno fa, sono entrato in una grossa crisi proprio perché il mio settore lavorativo è entrato in grossa crisi e praticamente io passavo il mio tempo alla televisione e a mangiare e ho preso 40 kg fra le altre cose. Poi finalmente ho trovato uno psichiatra, insomma, in gamba, il quale in una quindicina di giorni più o meno mi ha rimesso in palla. Però qual è il problema mio? Che non riesco praticamente quasi più a lavorare. Cioè sono bloccato io mentalmente, facendo io un lavoro di vendita, facendo agente di commercio. Devi essere caricato dentro di te, devi avere entusiasmo, voglia di fare. Certo, e lei questa voglia non ce l'ho assolutamente, cioè faccio una fatica pazzesca con i clienti a vedere il sorriso mentre dentro avrei voglia di piangere, ha capito? Certo. Ora, io sono in cura da diverso tempo con 3 farmaci, non so se li posso nominare o meno. Sì, non è un problema. Però vedo che sì, galleggio, ma non ci esco, ha capito? Federico, allora aspetti lì, perché anche qua è un caso piuttosto complicato. Questo vuol dire che non è curato in modo adeguato, non ha la terapia, giusta, non è stato affiancato ad un percorso di psicocoterapia. Quello che si può dire, però va sempre riconosciuto, c'è una familiarità importante e tanto prima la depressione compare, addirittura in adolescenza, tanto più ovviamente è una forma severa. E quello che va aggiunto, lo ringrazio l'ascoltatore di aver detto come il collega psichiatra è riuscito a rimetterlo in sesto, io credo che le cose vadano perfezionate. Oggi per tutte le cure farmacologiche è possibile dare un miglioramento, a questo dobbiamo affiancare, come è stato detto, da un lato l'autoaiuto, ma dall'altro anche quella parte di iniziativa personale che è ad esempio riprendere l'attività fisica, che è fondamentale. Essendo aumentato meglio. Di 40 kg, l'attività fisica, che sembra una delle cose che proposta un depresso sembra quasi una condanna, in realtà è un qualcosa che si può trasformare in un fatto molto positivo, perché farmaci e attività fisica agiscono sugli stessi processi di neurogenesi che permettono al nostro cervello di tornare a far cosa? Di tornare a essere plastico. Quello che abbiamo bisogno di fronte alle difficoltà e alla crisi è essere plastici, flessibili, perché questo ci permette di trovare soluzioni. Dovremmo sicuramente ritornare su questo tema, ma abbiamo detto, Enzo De Fusco, purtroppo i minuti ci stanno sfuggendo di mano, queste persone mediamente perdono una giornata a settimana di lavoro. Le aziende sono capaci di affrontare queste situazioni? Le capita di fare consulenza anche ad aziende che devono gestire queste problematiche al loro interno? Beh sì, purtroppo sì, il numero vasto di persone che sono interessate da questa patologia poi alla fine si riverbera anche nella gestione da parte di noi consulenti. E intanto dobbiamo distinguere: se la patologia nasce fuori dal mondo del lavoro, il datore di lavoro tratta l'assenza come una normale malattia, peraltro con una certificazione che non individua espressamente la diagnosi, ma evidentemente è uno stato di malattia che va tutelata come ogni altra malattia, come un raffreddore, paradossalmente come ogni altra assenza. Qui l'INPS tutela per 180 giorni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena per i primi periodi, poi va decrescendo in avanti. Se invece la patologia nasce dal mondo, quindi la causa è il mondo del lavoro, allora potremmo trovarci di fronte ad una malattia di tipo professionale e quindi potrebbe essere indennizzata anche dall'INAIL. E dunque, insomma, il tema è certamente tutelato in ambito istituzionale. Mi rendo conto che per Liana Rosenthal queste teorie da consulente del lavoro forse non sono, come dire, nella sua sensibilità, perché lei forse non crede che ci sia una patologia che nasca fuori o dentro al mondo del lavoro. Magari Enzo De Fusco, con la sua esperienza, ha riscontrato anche queste situazioni appunto differenziate in questo modo. Ecco. No, diciamo che io penso che il mondo del lavoro, come altri fattori, possono essere delle cause scatenanti. Certo, quindi pare di capire che quello che ha detto il De Fusco. Sì. Ecco, infatti. Anche il professor Mencacci vuole aggiungere. Quello che va ricordato è che in tutte le aziende c'è proprio nel piano piano di sicurezza e salute dei lavoratori lo stress lavoro correlato. Parlare di stress vuol dire avviare un processo che nelle sue forme prolungate diventa prima ansia e poi depressione. Allora, rispetto a questo, dobbiamo fare delle forme di intervento in questo senso preventivo, certo, nei confronti di molti lavoratori, ed è questa una capacità di anticipare e di motivare il proprio gruppo di lavoro. Va bene, in 30 secondi ce la facciamo a raccontare il vostro progetto di reinserimento lavorativo in Itaca, dottoressa Rosenthal? Sì, ci proviamo. Sì, se no rimandiamo sul sito, torniamo. Sì, no, Liana, possiamo provare. È una sperimentazione che stiamo facendo per persone con disagio psichico maggiore, e quindi sono persone che hanno una disabilità e sono nella fascia protetta. Questo progetto si chiama Job Station ed è un telelavoro, quindi è un lavoro che le persone fanno dal club, fanno da una postazione che non è quella da aziendale ma è lontano, attraverso un computer, e quindi in questo modo ritornano a lavorare. Tornano a lavorare, le persone vivono però in un ambiente protetto, quindi non sono sottoposte allo stress dei rapporti, ma sono reinserite. Grazie a tutti, chiudere. Grazie anche a Enzo De Fusco, al professor Mencacci, a Liana Rosenthal, anche a te, Nicoletta, grazie, grazie anche a me. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.